e poi lascio la parola a loro velocissimo. E parto da Giovanni, Vuming 2, che fa parte di un collettivo di scrittori che si chiama Vuming, che ha, diciamo, scommesso sulla scrittura collettiva, nel senso che scrivono i romanzi in quattro o in cinque, attualmente in quattro, e Timira è anche il risultato di questo lavoro di scrittura collettiva, ovvero un'opera che non è solo dell'autore, ma può essere di più autori e interagire con il pubblico anche, con il lettore. Oltre a questa scommessa di scrittura collettiva, il collettivo Vuming ha anche, diciamo, una particolare attenzione per la libera circolazione della cultura, nel senso che i loro libri, sì, potete comprarlo qui, ma lo potete anche scaricare da internet, gratuitamente e soprattutto legalmente, perché sono riusciti con trattative con, diciamo, la casa editrice a far mettere su tutti i loro libri, vedrete che all'inizio c'è una dicitura che l'opera è riproducibile, è leggibile, quindi voi potete, prima che acquistarla, se non avete, o se non avete le possibilità, o se non vi fidate di un collettivo di scrittori bolognesi dal nome cinese, potete leggerlo prima e poi decidere se è valido, se magari non è bello, e non comprarlo, insomma. Detto questo, passo ad Antar. Antar invece è nato a Mogadiscio, in Somalia, e nel 1983 è venuto in Italia per studiare, lavorare, come ha lavorato come mediatore culturale, ha lavorato anche per il teatro. E è figlio di Isabella Marincola, che è la terza autrice del libro, anche se non appare scritto, anche lei ha contribuito, e forse in maniera determinante, alla stesura del libro. E negli anni 90 Antar si è scontrato, diciamo, con la burocrazia italiana per avere la cittadinanza italiana, e in più si è trovato a dover ospitare sua madre, perché in Somalia, dove Isabella Marincola, italiana, ma viveva in Somalia, a Mogadiscio, si è trovata a dover rimpatriare in Italia, e si è trovata profuga in Italia, e Antar, da buon studente bolognese, in tripla, doppia, comunque in casa con altri studenti, si è trovato a dover prendersi cura di sua madre, tornata in Italia, che doveva essere il suo paese, ma poi vedremo meglio, insomma. Quindi, la terza autrice del libro è Isabella Marincola, che poi, in un certo senso, la sua presentazione è nel libro, e ora lascio la parola a voi, insomma, che è meglio. Grazie. Sì, allora, intanto spiego subito come mai questa terza autrice non compare tra i nomi degli autori del libro, e invece si parla di lei nella quarta di copertina, quindi c'è una sorta di discrepanza nei paratesti del libro, insomma, nella copertina ci sono due nomi degli autori, e poi in quarta di copertina si dice che invece questo romanzo è stato scritto a sei mani da un collettivo meticcio formato appunto da un cantastorie italiano col nome cinese, da un somalo con due cittadinanze e quattro lauree, e da una 85enne italo-somala attrice, che però appunto non ha il suo nome tra quelli degli autori, perché Isabella è morta mentre scrivevamo il libro, alla fine di marzo del 2010, quindi non ha potuto vedere il lavoro finito, e ci sembrava che fosse un po' una prevaricazione volerle imporre di accettare quello che non poteva aver visto. Insomma, aveva iniziato a scriverlo, aveva iniziato a ragionarci sopra, però il suo imprimatur, il suo nulla osta non ce l'ha potuto dare. Noi l'abbiamo sentito arrivare in qualche modo, ma insomma queste operazioni medianiche non giustificano il fatto di mettere un nome in copertina, quindi ci siamo presi solo io e Antar la responsabilità di quello che alla fine abbiamo introdotto dentro al libro, considerando che poi Timira, che era il nome che Isabella ha preso in Somalia, fosse in qualche modo sia il titolo del libro che la vede protagonista, sia il nome di una delle autrici. Funziona un po' come se fosse tutte e due le cose, no? Timira in arabo vuol dire dattero, è la stessa radice di tamarindo. Tamarindo è una parola araba, appunto, cioè che viene dall'arabo, significa il dattero dell'India, Tamar Hindi, ed è il nome che appunto Isabella ha preso in Somalia. La storia di Isabella è la storia di una donna che nasce in Somalia nel 1925 da un sottufficiale dell'esercito italiano e da una donna somala, Ashkira Hassan Yere, viene portata molto piccola in Italia insieme a suo fratello Giorgio, anche lui come lei meticcio, e che viene portata in Italia come cittadina italiana. Questa è la prima particolarità, diciamo, di questa coppia di fratelli e in particolare di Isabella, perché la routine, la prassi degli italiani che avevano figli con donne somale in Somalia, ma è stato così in gran parte anche in Eritrea, anche in Etiopia, era quella di non riconoscerli. Questi bambini quindi venivano tolti alle madri, perché nel momento in cui i padri non li riconoscevano, comunque molto spesso non venivano lasciati alle loro madri naturali e venivano cresciuti in orfanotrofi. Giuseppe Marincola invece fa un gesto di rottura rispetto alla consuetudine e riconosce i suoi due figli, li chiama Giorgio e Isabella come i suoi genitori, gli dà il suo cognome Marincola e automaticamente quindi gli garantisce la cittadinanza, perché le leggi dell'Italia di allora, che erano ancora, diciamo, leggi liberali, per quanto Isabella sia nata che c'era già il regime fascista, però diciamo, la legge sulla nazionalità era ancora quella dell'Italia liberale, prevedeva che i figli di padre italiano riconosciuti fossero automaticamente italiani. Si considerava infatti con un'idea piuttosto maschilista della genitorialità che il sangue del padre fosse più forte di quello della madre, e quindi che i figli di un padre italiano fossero più italiani che non altro, più italiani che somali in questo caso qui, no? Perché il sangue del padre è più forte. Probabilmente doveva essere convinto di questa cosa anche Giuseppe Marincola, che quindi considerava che i suoi figli in quanto italiani andassero riconosciuti, gli andasse data la cittadinanza, e probabilmente convinto anche appunto della retorica dell'epoca, secondo la quale appunto gli italiani dovevano incivilire altri popoli selvaggi, non li lasciò crescere in Somalia, non li lasciò crescere dalla madre selvaggia, ma li portò in Italia perché crescessero da italiani veri, no? Facessero le scuole italiane, imparassero la cultura di Roma. Così Giorgio e Isabella si trovarono, Isabella per prima in realtà, a vivere nella Roma fascista di fine anni 20 e degli anni 30, la Roma che fu poi quella delle leggi razziali, la Roma dell'impero, essendo probabilmente gli unici due black italian presenti in città. Oggi appunto ci viene detto che questo fenomeno di italiani non proprio bianchi sembra un fenomeno recente, invece andiamo indietro nel tempo e troviamo che ci sono due italiani con la pelle scura già nella Roma di fine anni 20. Questa è l'altra rarità, insomma, anche quei padri che hanno riconosciuto i loro figli, soprattutto in Eritrea e in Etiopia, molto spesso poi li hanno tenuti là, non li hanno portati in Italia, in qualche modo erano la dimostrazione di un'avventura coloniale, quindi molti se ne vergognavano, anche se magari li avevano riconosciuti. Invece Isabella e Giorgio crescono qui. Io sono venuto per la prima volta in contatto con la storia di Giorgio Marincola, in realtà. Ho conosciuto Antar in una clinica per malattie mentali, nessuno di noi due era ricoverato nella clinica, ma io ero amico di una persona che viveva lì, che era ospitata lì, e Antar faceva l'educatore. Antar aveva letto un libro del nostro collettivo che si chiama Asce di guerra, dove noi raccoglievamo storie sepolte, dimenticate, poco politicamente corrette della resistenza italiana, e aveva l'impressione che fossi, che io potessi essere la persona giusta alla quale raccontare la storia di suo zio Giorgio Marincola, perché questo bambino, che appunto abbiamo visto nascere in Somalia da questa coppia mista nel 23, dopo essere cresciuto in Calabria dal fratello del padre, dal fratello di Giuseppe Marincola, che non poteva avere figli e in qualche modo lo adottò insieme alla moglie, lo crebbe in Calabria, andò a vivere a Roma, dove c'era già Isabella, nel 33, e lì aderì alla resistenza, aderì al Partito d'Azione, entrò in Giustizia e Libertà, fece azioni di resistenza a Roma e a Viterbo. Una volta liberata Roma, si fece paracadutare dal servizio segreto inglese nella zona di Biella per fare da ufficiale di contatto tra le truppe alleate e i partigiani di Giustizia e Libertà della zona. Venne catturato, venne internato nel lager di Bolzano. Una volta liberato il lager, il 30 aprile 45, quindi diciamo già 5 giorni dopo la data che noi consideriamo quella della liberazione d'Italia, Giorgio Marincola, invece di salire su un camion della Croce Rossa Internazionale che lo avrebbe portato in Svizzera e poi da lì lo avrebbe fatto ritornare a Roma, siccome aveva conosciuto due partigiani trentini dentro al lager, che venivano liberati insieme con lui, li seguì nelle loro valli, perché questi gli avevano raccontato che i tedeschi molto probabilmente si sarebbero ritirati dalle valli del Trentino, che era diventato una provincia del Reich dopo l'8 settembre, facendo vendetta sulla popolazione civile. Quindi che c'era bisogno di andare a disarmare, a impedire quantomeno che i tedeschi in ritirata si rivalessero sulla popolazione civile. E Giorgio Marincola va e muore, non ha ancora compiuto 22 anni, ne ha ancora 21, muore il 4 maggio del 45, quindi a guerra ancora più finita, nell'ultima strage nazista sul territorio italiano, a Stramentizzo, vicino a Molina di Fiemme, in Val di Fiemme. Questa è la storia che Antar mi raccontò ormai 9 anni fa nel giardino di questa clinica, un'antica villa sui colli di Bologna, per malattie mentali. C'era molto poco materiale, appunto lui stesso, che era suo nipote, anche sua sorella Isabella, sapevano molto poco della vicenda resistenziale di Giorgio, perché di fatto Giorgio era partito da Roma dicendo vado a fare un corso di formazione e di propaganda per il Partito d'Azione, sto via qualche mese, ormai Roma è stata liberata, poi tornerò, e invece non è più tornato. E non ha mai raccontato, non ha mai potuto raccontare in famiglia che cosa abbia fatto, tant'è che quando trovarono il suo cadavere in Val di Fiemme si chiedevano chi è questo qua, chi è questo nero, è un ufficiale anglo-americano, è un sudafricano che è venuto qua con le truppe inglesi, però da quelle poche notizie che Antar mi portò e mi raccontò, emergeva anche un'altra storia, che è quella della sorella di Isabella Marincola. Cioè emergeva il fatto che questi fratelli appunto erano due, che c'era una sorella che era rimasta a casa, che evidentemente quindi aveva dovuto condurre una resistenza diversa, disarmata, nella Roma razzista e fascista di quegli anni, che probabilmente aveva conosciuto il passaggio, diciamo, dalla Roma razzista e fascista alla Roma razzista e repubblicana del dopoguerra, quindi che in qualche modo aveva visto passare il razzismo dal regime alla Repubblica Italiana e che poteva raccontare questo passaggio. Sapevo che questa donna evidentemente a un certo punto della sua vita era tornata in Somalia, perché sapevo che Antar era nato a Mogadiscio e quindi in qualche modo doveva averlo partorito là, e sapevo che sicuramente era poi tornata in Italia, immaginavo in seguito alla guerra civile, visto che Antar mi parlava di lei come di una persona che era lì in quel momento a Bologna. E poi pochissimo altro, ancora meno che su Giorgio, no? Pochissimo altro emergeva dalle pieghe di questa storia, come un affresco sepolto da un altro affresco. Per esempio, emergeva questo dettaglio che subito mi è sembrato straordinario, che Isabella appunto per mantenersi, per guadagnarsi da vivere, nell'immediato dopoguerra italiano, essendo andata via di casa per contrasti con la matrigna che aveva allevato lei e in parte anche Giorgio, aveva fatto la modella e poi l'attrice, e come attrice aveva recitato in Riso amaro di Giuseppe De Santis, che è considerato una delle pietre miliari della cinematografia italiana, no? Un capolavoro del neorealismo che io ho visto almeno una volta, no? questi film qua bisogna vederli, l'avevo visto una volta sola e non mi ero mai accorto che ci fosse un'attrice di colore nel cast, e invece c'è, se ve lo andate a riguardare trovate che c'è una mondina nera, e una mondina nera in teoria vi dovrebbe saltare agli occhi perché il film è del 48. E ancora noi ci chiediamo, abbiamo provato a dare una risposta narrativa dentro al romanzo, come mai Giuseppe De Santis scelse proprio una ragazza di colore per fare la mondina nelle campagne del Vercellese del 48, no? Quindi una scelta piuttosto incongrua. Spesso Isabella si vedeva rifiutare dei ruoli proprio per via della pelle, no? Non c'erano tanti ruoli per una ragazza scura a Cinecittà nel 46, 47, 48. Di solito i ruoli che le davano era la schiava, ha recitato anche in Fabiola di Blasetti e faceva appunto la schiava. Questi elementi, già solo questi puntini da unire, mi avevano convinto fin da allora che anche la storia di Isabella sarebbe stata interessante da raccontare, che prima andava in qualche modo staccato l'affresco di Giorgio Marincola, bisognava restaurare quello, perché vedevo che tutta la famiglia, Antar e poi immaginavo anche Isabella, erano particolarmente determinati a far emergere quella storia dall'oblio che Isabella considerava la seconda morte di suo fratello, che aveva ricevuto la medaglia d'oro al valor militare a metà degli anni 50, postuma, e poi però più nessuno si ricordava di lui e della sua storia particolare, che probabilmente nell'Italia di oggi aveva un significato speciale, no? Poter raccontare che nella multiforme resistenza italiana c'era anche la presenza di un ragazzo nato nelle colonie da una coppia mista italiana. Ovviamente io non faccio lo storico di professione, faccio il cantastorie, quindi ho bisogno che prima di me gli storici scavino negli archivi come sanno fare soltanto loro. Io da questo punto di vista insomma non ho tutta la professionalità necessaria, e siccome la storia di Giorgio Marincola appunto si limitava a pochi fogli, a poche cose, abbiamo avuto la fortuna che quasi contemporaneamente al nostro incontro, quello mio e di Antar, una coppia di storici di Roma, Carlo Costa e Lorenzo Todonio, incappassero nella vicenda di Giorgio Marincola per altre vie. Gliel'aveva raccontata Mario Fiorentini, che è stato un partigiano romano, una leggenda vivente perché ha 94 anni, ancora vivo e raccontante, diciamo, e gli aveva parlato di questo partigiano, e loro si erano messi sulle sue tracce. Per di più erano anche loro due lettori dei libri del collettivo Wuming. Quindi ci mettemmo d'accordo, di fatto progettammo che loro avrebbero scavato negli archivi per tirare fuori tutto quello che potevano su Giorgio Marincola e scrivere un saggio storico, biografico, preciso, puntuale sulla sua vita. E poiché io invece avrei usato le armi della narrativa per dare magari a questa storia, a quella storia, una maggiore diffusione attraverso uno spettacolo che intrecciasse lettura e musica. Quindi nel 2008 uscirono sia Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, che è stato pubblicato da questa casa editrice di Roma che si chiama Iacobelli, sia il reading, spettacolo musicale Basta uno sparo, che invece appunto io e altri musicisti abbiamo portato in giro per l'Italia. A quel punto, in qualche modo, tra virgolette, sistemata la pratica Giorgio Marincola, nel senso fatto quello che andava fatto con quell'affresco lì, ho pensato che di potermi avvicinare a Isabella. E proprio il giorno della presentazione, come questa, a Bologna, di Razza Partigiana, sono andato da lei e le ho detto: signora Marincola, forse suo figlio le ha parlato di me, non lo so, mi piacerebbe chiacchierare a proposito della sua vita, mi interesserebbe molto capire come lei ha vissuto tra Italia e Somalia, mi sembra che appunto il suo sguardo sulla storia di questi due paesi possa essere particolarmente illuminante, far venire a galla cose che non conosciamo, no? E così prendiamo un appuntamento, andai un mercoledì pomeriggio a casa Marincola, e poi questi mercoledì sono diventati un appuntamento fisso, e io andavo tutte le settimane a casa Marincola a chiacchierare con Isabella. che non era un tipo facile da intervistare, perché era una persona che voleva un rapporto alla pari, e quindi non da intervistata a intervistatore, ma che a sua volta molto spesso cominciava a farti lei delle domande, no? Tu mi chiedi della mia vita, adesso ti chiedo io della tua. Come va con i figli, con tua moglie, rapporti sentimentali, come siete messi? E quindi nelle registrazioni ci sono anche i fatti miei, in qualche modo. E poi niente, dopo che le registrazioni cominciavano ad ammontare a una quarantina di ore, ormai insomma c'era tanto materiale che ci eravamo raccontati in questi pomeriggi passati insieme, siccome ormai eravamo diventati amici, abbiamo cominciato a chiederci: che ne facciamo di questa amicizia? Lasciamo così, insomma, bene, ci siamo conosciuti, è stato bello e continuiamo a frequentarci. Mettiamo in un cassetto le cassette, appunto, e gli MP3 con le registrazioni, oppure ci facciamo qualcosa. E io inizialmente pensavo, boh, magari sbobino queste interviste, le trasformo, gli do una veste narrativa, letteraria, poi le presento a Isabella per un'approvazione finale, diciamo così, e magari tiriamo fuori un libro. E per fortuna Isabella, quando abbiamo cominciato a ragionarne, mi ha detto: no, così no, così il lavoro lo fai tutto tu. Va bene, sì, io ti ho raccontato, però voglio scrivere anch'io. E giustamente, e per fortuna, mi ha fatto questa obiezione, perché altrimenti il mio atteggiamento sarebbe stato in qualche modo colonialista nei confronti della sua storia, no? La prendo, ci faccio quello che voglio io, la trasformo, ci produco qualcosa di mio, e poi tutt'al più tu mi puoi dire se ti va bene o no. Non era esattamente, insomma, così crudo il mio progetto, però più o meno l'avevo pensata così, nonostante appunto la scrittura collettiva sia una delle mie pratiche abituali di lavoro. Però mi ero spaventato, probabilmente per la differenza d'età tra me e Isabella, 50 anni di differenza, differenza di esperienze. Le avevo prestato dei romanzi che mi piacevano e a lei facevano tutti schifo. Diceva: questi sono elenchi telefonici, ma parlami di Kafka, parlami di Dostoevsky, ma queste robe che escono adesso sono tutte brutte. Dico: ma per fortuna non le ha portato niente di scritto da me, ovviamente appositamente, no? Di fatto da me le portavo solo del pane fatto in casa, dei peperoncini ripieni di tonno, così, ma non molto altro. E niente, quindi grazie a quella intuizione invece di Isabella, che questa storia meticcia andava raccontata da un collettivo autoriale meticcio, da autori che mettessero in crisi la loro identità, che si mescolassero, in modo che nessuno potesse dire il mio libro, ma il nostro libro, grazie a quell'intuizione abbiamo cominciato a scrivere insieme, poi a strutturare prima di tutto il libro, a dargli una scaletta e poi a scrivere insieme. E poi, quando Isabella è morta, ho aspettato qualche settimana dopo che le abbiamo fatto il funerale, dopo che l'abbiamo salutata come si deve, ho aspettato qualche settimana. E a un certo punto Antar mi ha chiamato e mi ha detto: a me fa troppo male vedere quei fogli che avevate cominciato a scrivere buttati lì, le cassette che avevate registrato, appunto, di nuovo dentro un cassetto. Isabella avrebbe voluto che questo libro venisse finito. Purtroppo, insomma, tante cose nella sua vita le ha iniziate, non è riuscita a finirle, mannaggia, anche questa, no? È morta prima di riuscire a portarla a compimento. Lei diceva: sempre ho sbagliato tutto nella mia vita, una cosa straordinaria, ho proprio fallito qualunque impresa. E insomma, diamole almeno, no, il riscatto di riuscire nell'impresa che lei aveva cominciato. E così ci siamo rimessi a scrivere, abbiamo fatto una specie di staffetta, e abbiamo finito il libro e lo abbiamo dedicato a Isabella Marincola, Timira Hassan. Buonasera. Sì, quando Isabella è morta mi sembrava un peccato, perché mi rendevo conto che anche l'incontro che è stato fatto, cioè che loro due hanno avuto, era un incontro dove per lei era anche un modo di elaborare questo suo percorso di vita così lungo rispetto al percorso di suo fratello, che è stato molto breve. Suo fratello è morto a 21 anni. e questo continuare ad andare avanti e indietro tra la Somalia e l'Italia era un altro di quei nodi che lei si portava dietro, e mi rendevo conto che questo progetto che lei aveva messo in piedi con Giovanni sicuramente aveva anche un elemento terapeutico. E quindi quando è morta mi è sembrato anche un grande peccato lasciare, perché poi anche per me lo è stato una cosa terapeutica, perché è stato anche un pretesto per elaborare un lutto, no? Il lutto di mia madre, quindi cosa meglio che non ripensare in qualche modo accompagnarla. La storia di Isabella, la storia dei Marinco è una storia particolare, una storia che intreccia due paesi, una storia che copre quasi 80 anni tra Somalia e Italia, perché Giorgio e Isabella quando nascono, il loro papà Giuseppe Marinco era un sottufficiale italiano in Somalia, già presente dal 1919. La Somalia era una colonia già dal 1908 ufficialmente, quindi in epoca liberale la Somalia era una colonia. Quando nasce Giorgio nel 1923, a settembre, a dicembre di quell'anno viene un governatore molto importante, una personalità molto importante per la storia somala ma anche per la storia italiana, che si chiamava Cesare Maria De Vecchi di Valcismon, che era uno dei quadruvili della marcia su Roma del 22. Lui starà come governatore in Somalia dal 1923 al 1928. E Giorgio e Isabella nascono, Giorgio nel 23 a settembre, governatore a dicembre del 23, e Isabella nel 25, quindi Giorgio e Isabella nascono in un'epoca coloniale fascista, strettamente fascista, quindi un momento anche il passaggio tra l'epoca liberale e l'epoca fascista si sente molto, perché il tasso di violenza che viene portato in colonia è sicuramente molto più alto. E la voglia di controllare direttamente il territorio e anche, diciamo, anche di mettere a servizio un lavoro corvè le popolazioni somale in epoca fascista si fa sempre più strutturato e più forte, quindi anche un momento molto difficile dove questi mulatti sono figli proprio anche di militari che devono fare il lavoro sporco, nel senso se ci sono popolazioni che sono ribelli bisogna andare lì e aprire il fuoco, però questa contraddizione poi si viveva anche avendo poi delle donne somale con cui poi si facevano anche dei figli, quindi nascono in quest'epoca qua. E un altro trauma importante nella loro vita, loro vengono portati via molto piccoli, Giorgio avrà avuto un anno e mezzo, Isabella avrà avuto un anno e 7-8 mesi, e vengono portati in Italia, quindi Isabella viene cresciuta da una signora che il padre poi sposerà, una signora sarda, di Lanusei, che la chiamava ironicamente mammina, perché aveva un rapporto molto conflittuale con questa signora sarda, perché Isabella era l'evidente frutto del peccato del padre nelle colonie, quindi non era anche... Noi abbiamo, quando abbiamo scritto quelle parti lì, abbiamo cercato di metterci nei panni di una signora sarda che forse aveva un livello di istruzione non particolarmente eccelso, come poteva convivere con questa figlia nera del padre che veniva dalle colonie. Quindi stiamo parlando degli anni 30, quindi cresce con questa donna a Roma, il fratello invece crescerà in Calabria fino all'età di 10 anni dagli zii paterni, Carmelo Marincola, poi verrà a Roma. E loro vivevano in un quartiere, Casal Bertone, un quartiere popolare di Roma, e fanno la scuola, adesso oggi la scuola dove è situata si chiama Pilo Albertelli, una volta si chiamava l'Umberto I, ed è uno dei quartieri più multiculturali, multietnici della Roma, il quartiere si chiama Esquilino, forse avete sentito Piazza Vittorio che è una vicino alla stazione, ecco. L'Umberto I era una scuola, un liceo, un ginnasio che era in quel quartiere là. Crescono a Roma nell'epoca fascista, crescono a Roma quando le truppe fasciste entrano a Addis Abeba, quindi quando c'è la proclamazione dell'impero, crescono a Roma quando ci sono le leggi razziali del 38 e vivono a Roma quando scoppia la guerra, dove Giorgio poi farà il suo dovere di italiano, lui aveva scritto in un foglietto a matita, ci raccontava Isabella, che lui aveva scritto in matita, dice io vado a fare il mio dovere da italiano, e entra nelle formazioni, fa la prima parte a Roma, Viterbo, quando entrano gli americani nel 1944, lui poi si trasferisce, viene paracadutato nel Biellese e combatte in una zona che sta tra Ivrea e Biella, si chiama La Serra, e poi viene fatto prigioniero, quindi, e poi lui non tornerà più a casa. E il loro sogno era, di Giorgio e Isabella, era: noi torneremo in Somalia a conoscere nostra madre, che era un'idea che coltivavano in comune, questa voglia di ritrovare, perché essendo venuti via molto piccoli, della mamma avevano, diciamo, una certa nostalgia. Giorgio non torna, Giorgio muore nel 45, il 4 maggio, guerra finita, e Isabella quindi resta sola. Il fratello era anche un mediatore nella famiglia, perché comunque la signora Sarda temeva un po' Giorgio, ma una volta morto Giorgio, il padre di Isabella e di Giorgio, ritorna da 4 anni di prigionia a Gondar, una città dell'Etiopia, fatto prigioniero dagli inglesi, e torna psicologicamente provato e fragile nel corpo e nello spirito, e la signora prende le redini della casa, della famiglia, e quindi dice al padre, dà un ultimatum, dice: o lei o io, lei deve andarsene. E Isabella non ha alternativa, il padre non riesce a difenderla, quindi nel 45, all'età di 20 anni, Isabella esce di casa, senza sapere esattamente dove andare, con un'Italia uscita da poco dalla guerra, e si aggira per la città eterna. Esce di casa e quindi, avendo perduto questo fratello, però non avendo idea di che cosa era andata a fare, quali erano le sue conoscenze, come era arrivata a fare il percorso della resistenza, lei esce di casa anche con l'idea di, perché era una famiglia dove le informazioni non circolavano. Ad esempio, Isabella non sapeva, lei diceva: ma perché io sono scura? Chiedeva al padre, e il padre diceva: perché tu hai preso il sole a Mogadiscio. E quindi per lei era sufficiente questa cosa qua. Poi diceva: ma perché in un pezzo di carta, un certificato anagrafico, c'è scritto io sono figlia di Ashkira Hassaniere? E il padre gli diceva: è il nome di Elvira Flores, questa signora Sara, tradotto insomma. Quindi era questa un po' la famiglia, era una famiglia un po' depistante, diciamo. Quindi lei esce di casa alla ricerca, in qualche modo, di un po' di verità, anche capire che cosa faceva suo fratello, chi erano i suoi amici, dove, qual era il tessuto umano che frequentava a Roma, e va, trova casualmente un libro di Rilke, dove c'è una dedica di una signora che si chiama, noi la chiamiamo Zimmermann, ma loro si chiamano i Tannenbaum, una famiglia ebrea tedesca, e va alla ricerca di questa famiglia. E cercando suo fratello, Isabella invece trova il padre di questa signora, di Mute, che è un pittore, e dice: Isabella, poseresti per me? Quindi lei esce di casa a cercare suo fratello e poi si ritrova a fare la modella per questo pittore. E però lei, siccome doveva ricostruire una sua identità, doveva ricostruire anche una vita, un modo di guadagnarsi da vivere, non avendo mezzi, il padre comunque non era nelle condizioni migliori per poter dare una mano alla figlia, questa figlia che comunque in quella casa non riusciva più a stare, e trova questo lavoro e tramite questo lavoro entra anche, diciamo, a contatto con il mondo culturale dell'epoca. Stiamo parlando della fine anni 40, primi anni 50, e quindi si fa questo percorso nel mondo dei pittori, ma e poi si avvicina nel mondo del teatro, e poi fa queste due parti di cui parlava prima Giovanni, in Fabiola e in Riso Amaro. Incontra nell'arco di questo periodo, che durerà almeno 10 anni, un uomo importantissimo per lei, è un giornalista di Paese Sera, c'era un giornale una volta che si chiama Paese Sera, e che è una persona che stava seguendo i paesi che stavano arrivando alla decolonizzazione. C'è stato Bandung nel 1956, l'incontro dei paesi non allineati in Indonesia, e lui seguiva moltissimo questa fase di paesi che stavano, dopo la guerra in qualche modo, dopo la seconda guerra mondiale, i paesi, la Gran Bretagna, la Francia, avendo perduto, diciamo, molte delle loro forze nella guerra, stavano elaborando un'uscita di scena dai paesi che colonizzavano. Quindi dalla fine degli anni 40 leggermente si prepara per molti paesi la via dell'indipendenza e la via dell'autodeterminazione dei popoli. E quindi questo giornalista che stava seguendo molto lo scenario che si stava aprendo in tanti paesi africani, avendo questa compagna italo-somala, e essendoci stato negli anni 50 una stranissima cosa, unica e rara, e non è mai accaduto che un paese colonizzatore poi andasse a preparare un paese ex colonizzato all'indipendenza, perché Isabella tornerà in Somalia nel 1956, anzi andrà per la prima volta nel 56, aveva 31 anni, ma in quell'epoca lì, quando andò in Somalia nel 56, c'era un'amministrazione che si chiamava AFIS, Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia, che partì nel 1950 e si concluse nel 60 con l'indipendenza della Somalia, ma la cosa incredibile è che l'Italia non era neanche uno Stato membro delle Nazioni Unite, perché entrò nel 55, però riuscì ad avere questo mandato fiduciario dalle Nazioni Unite per portare la Somalia all'indipendenza, cosa che in epoca coloniale per i somali oltre la terza elementare non potevano andare, quindi loro in 10 anni avrebbero dovuto fare quello che in 70 anni non erano riusciti a fare, o non hanno voluto fare. Quindi dovevano preparare una classe politica somala che doveva poi prendere le redini di un paese che è stato fino al 41 una colonia italiana. Loro andarono in quest'epoca qua, e la cosa era incredibile perché i funzionari dell'amministrazione fiduciaria erano in continuità col Ministero delle Colonie ed erano le stesse identiche persone che prima erano funzionari del Ministero delle Colonie, ora erano funzionari dell'amministrazione fiduciaria. Sagaci, a volte i somali, avevano ribattezzato amministrazione fiduciaria italiana in Somalia come ancora fascisti italiani in Somalia, quindi per diciamo, puntualità. Lei va in quest'epoca qua, 56, sono 5-6 anni che c'è l'amministrazione, e incontra sua madre per la prima volta. Incontra sua madre, noi lo raccontiamo, è stato un incontro molto commovente. La madre dice queste cose, dice: almeno sono contenta che uno dei due è tornato. Però il rapporto non è facile, perché comunque Isabella non parlava il somalo e la madre non parlava l'italiano, lo parlava male, lo parlava poco, e il loro rapporto era sempre minato dal malinteso, dall'equivoco, dalla incapacità di capirsi. Un episodio che ti raccontiamo, che è un episodio vero, Isabella va a trovare la madre successivamente, dopo l'incontro. Prima viene a Mogadiscio, poi dopo la madre si sposta nel suo paese natale e va a trovarla un mese dopo, perché Isabella starà là 8 mesi in Somalia, tra il 56 e il 57, e va in questo paesino a 150 km da Mogadiscio che si chiama Lusamare, e chiede una cosa, dice: mamma, dov'è che posso andare in bagno? E la madre risponde: stronza, vai di là. E Isabella la ferma un attimo, torna, dice: ma mamma, io diverse volte che ti vedo dire stronza. Ma perché mi dici stronza? Dice: ma no, tuo padre lo diceva sempre, dice: stronzo, vieni qua, stronzo, vai là, stronzo. È un modo di dire, è come dire ciao. No, dice, allora mia madre cerca di spiegarle come poteva, che cosa volesse dire quella parola, e là rimane abbastanza. E quindi era questo un po' il problema fra loro, la loro incapacità di capirsi. Poi Isabella, dopo questi 7-8 mesi, ritorna in Italia. E con quest'uomo con cui era partita il rapporto loro non andava molto bene, quindi si lasciano, e vivrà un altro periodo a Roma, un po' facendo diversi lavori. E negli anni, fine anni 50, primi anni 60, incontra mio padre che studiava a Roma con una borsa di studio, e si innamora e ritornerà in Somalia, nel 60-61 ritornerà in Somalia, e ci vivrà in Somalia. Ci vivrà fino al 91, vivrà 30 anni in Somalia. E lei in qualche modo, se non fosse esplosa la guerra civile, sarebbe vissuta, sarebbe rimasta lì, perché comunque aveva suo marito, aveva questa carissima amica con cui vivevano insieme, con cui poi hanno scritto anche un pamphlet, ma gli italiani sono proprio così, una descrizione pittoresca, divertente, su tipi, ideal tipo italiani che si aggiravano nelle ex colonie del Corno d'Africa. Però rientra in Italia nel 91, un'Italia molto diversa rispetto a quella che lei conosceva, ha conosciuto tante fasi dell'Italia, l'Italia del dopoguerra, l'Italia della guerra, l'Italia del fascismo, l'Italia della marcia su Roma, l'Italia post-marcia su Roma, l'Italia delle leggi razziali, l'Italia degli anni 50, l'Italia del sorpasso, l'Italia del boom economico, nel boom lei va via, ritorna all'Italia del 91, l'Italia di Tangentopoli, ritorna all'Italia della Milano da bere, che non era più, non c'era più niente molto da bere, perlomeno, stava concludendo la parte bevereccia, diciamo, e ritorna, ritorna però in una strana condizione, ritorna con una, che poi la sua, tutta la sua parabola esistenziale ha sempre avuto questa capacità di combinare sempre molto le aspetti contraddittori del suo cammino esistenziale, e ritorna al 91 in questa condizione particolare, che è la condizione di cittadina e di profuga. No, è interessante su quest'ultima. Sì? Ok. Torna nel 91, è interessante nel libro come hai descritto questo passaggio, proprio perché Isabella ti mira, non riesce a capire il suo reale status. Perché? Perché Isabella Marincola è una cittadina italiana, non è una cittadina somala, che viene rimpatriata. Però allo stesso tempo non riesce ad avere gli indennizzi dello Stato italiano, le agevolazioni che lo Stato italiano dà ai cittadini italiani rimpatriati. Ed è, c'è una scena interessante nel libro di Timira, che è Isabella, che cerca sul dizionario per capire il suo status, ma non riesce nelle parole del dizionario a trovare la sua condizione, e questo è importante perché secondo me rispecchia un po' anche tutto il libro, nel senso che è una continua contraddizione, ovvero sì, è una cittadina italiana però è anche profuga, quindi è come se in un certo senso fosse straniera, quindi profuga in patria, e questa condizione di perenne contraddizione, diciamo, che fa risaltare, come tra l'altro se non sbaglio hai detto tu in un'altra presentazione di Timira, fa saltare lo stereotipo Isabella Marincola, ovvero la povera profuga in Italia oppure l'africana rimpatriata in Italia che riesce ad avere la casa popolare prima dell'italiano, no? Per intenderci. Sì, la contraddizione che Isabella ha vissuto è molto particolare, perché lei come cittadina, a lei come cittadina italiana viene offerto subito, appena scoppia la guerra civile, di essere rimpatriata in Italia. Già a metà del gennaio 91, quando la guerra a Mogadiscio era scoppiata da 2 settimane, i giornali italiani titolavano che con una brillante operazione dell'ambasciatore italiano Mario Sica, grazie ai C-130 dell'aeronautica militare, erano stati evacuati tutti gli italiani da Mogadiscio. In realtà, a quella data, almeno un'italiana a Mogadiscio c'era ancora, Timira Hassan, ovvero Isabella Marincola, che non aveva accettato di salire su quei C-130 dell'aeronautica, perché prevedeva già il suo destino una volta arrivata in Italia, cioè quella di dover fare la profuga, di non avere una casa, sapeva di non avere un capitale sociale, un capitale familiare, sapeva che in Italia c'era un figlio che faceva fatica a laurearsi, che lei considerava insomma un po' un buono a nulla perché non studiava, no? Noi ci ridiamo molto su questo nel libro, però a un certo punto i giornali italiani smettono di parlare della Somalia, cominciano a parlare di bombe intelligenti su Baghdad, e a un certo punto a maggio Isabella viene convinta invece a tornare in Italia. Antar, diciamo, dal suo benestare dice sì, insomma un posto glielo trovo, dai, se deve morire a Mogadiscio, che poi mi sentirò in colpa per tutta la vita, fatela venire qua, e convincono anche Isabella in questo modo. E prima che Isabella arrivi in Italia viene trattata con grandi privilegi, invece, cioè la sua cittadinanza italiana le fa guadagnare grandi privilegi che i somali non potrebbero avere: il volo da Mogadiscio a Nairobi, l'albergo a Nairobi, il volo della Kenyan Airways per Fiumicino, tutto pagato. E uno dice, cacchio, vedi che no, la cittadinanza italiana in qualche modo mi fa godere alcuni privilegi, mi dà uno status. Poi arrivata in Italia tutto questo finisce, non c'è praticamente nulla ad accoglierla. Quando i profughi italiani da Mogadiscio erano arrivati in massa, c'erano stati almeno degli alberghi, no? Perché c'era da gestire, insomma, con questa brillante operazione con cui li avevano portati fuori da Mogadiscio, un bel numero di persone, li avevano piazzati in alcuni alberghi di Roma, ma per una sola non avevano attivato niente. Quindi lei non ha un tetto, non ha niente, cioè Antar la può piazzare in giro dagli amici, mi tieni mia madre per un giorno, me la tieni per un altro, e veramente deve impazzire organizzativamente. E lei scopre che la sua cittadinanza italiana, una volta arrivata in Italia, conta veramente poco, non le dà particolari garanzie, che è una profuga, e che ancora meno garanzie, proprio quella che veramente non conta niente, è l'essere sorella di un partigiano, medaglia d'oro al valor militare, che per quello Stato italiano è morto, no? Quello proprio non apre nessuna porta, delle due le chiude. Questa condizione è acuita e resa ancora più contraddittoria dal fatto che lo Stato italiano, l'unica cosa che aveva previsto nel 91 per indennizzare in qualche modo, per dare un aiuto ai profughi dalla Somalia in guerra, cittadini italiani, era un contributo di 11 milioni di lire. Questi 11 milioni di lire si potevano prendere in due tranche, e la prima tranche di 4 milioni bisognava prenderla entro 3 mesi dall'ingresso in Italia. Ma la condicio sine qua non, la condizione necessaria per ottenere questi 4 milioni era quella di prendere la residenza in un comune italiano. Quindi, per ottenere i soldi che lo Stato italiano metteva a disposizione dei cittadini italiani profughi, il profugo doveva entro 3 mesi diventare residente, diventare un profugo residente, il che è abbastanza contraddittorio, no? E per questo Isabella comincia a ragionare su, ma allora questa mia cittadinanza italiana esattamente che vuol dire? Non sarà che è una specie di falsa cittadinanza, come uno è un falso invalido, così uno è un falso cittadino, perché non ne vedo i risultati, no? Finché ero fuori dall'Italia sì, i risultati li ho visti, ma adesso che sono arrivata non mi pare più di essere cittadina italiana. E questo, insomma, ci è parso una eccezionalità di questo personaggio molto particolare che è Isabella Marincola, che è Etmira Hassan, però quel genere di eccezione che all'inizio conferma la regola e poi diventa la regola, no? Che tende a diventare esempio in qualche modo, la regola tu la puoi insegnare tramite un esempio e facendo vedere le eccezioni. Però le eccezioni poi pian piano tendono a diventare anche quelle regole, no? La regola si amplia magari, e quella che prima era un'eccezione pian piano diventa regola. La lingua, lo vediamo, fa continuamente queste cose, no? E Isabella è proprio quel tipo di eccezione, che in qualche modo è una sorta di avanguardia, una che ha sperimentato per prima una condizione contraddittoria che pian piano arriva a interessare tutti quanti. Tutti quanti cominciamo a sperimentare in alcuni ambiti della nostra vita situazioni in cui la nostra cittadinanza è falsa e siamo piuttosto profughi che non cittadini. Proprio mentre poco dopo che è uscito il libro ne abbiamo avuto un esempio molto lampante a 30 km da casa nostra, a Bologna, con le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna, no? Quelle persone si sono sentite dire che i danni causati dal terremoto alle loro abitazioni non sarebbero stati risarciti e riparati dallo Stato, perché lo Stato, il governo, aveva appena fatto una legge che prevedeva che quel tipo di danni sarebbe stato risarcito stipulando un contratto con un'assicurazione privata. Allora, quindi hanno scoperto di fatto di essere profughi e non cittadini in quel settore della loro esistenza, no? Perché appunto non era più lo Stato a dargli una certa garanzia, ma era un privato, doveva essere un privato. Allora, se appunto questo genere di cose lo Stato nazionale non le fa più, uno davvero si chiede che cosa significa essere cittadino, che me ne faccio della cittadinanza, e uno potrebbe anche rispondere niente, no? Cioè, per fortuna siamo uomini senza etichette, no? Basta profugo, rifugiato, cittadino, siamo esseri umani e in quanto esseri umani abbiamo dei diritti. Però poi esistono delle istituzioni che difendano questi diritti umani, i diritti dell'essere umano in quanto tale? Ci sono delle garanzie per l'essere umano in quanto tale? Direi di no. Questo è il dramma, no? Lo Stato nazionale in qualche modo era quel luogo, quel posto giuridico dove si potevano sedimentare i risultati di lotte sociali, penso allo Statuto dei lavoratori, anche quello smantellato, insomma in corso di smantellamento, in modo tale poi che lo Stato potesse garantire delle cose ai suoi cittadini. Ma se non c'è più quel deposito lì per i risultati delle lotte sociali, dove le andiamo a mettere questi risultati? Qual è l'istituzione che appunto difende gli esseri umani in quanto tali, al di là di ogni etichetta? Questa istituzione non c'è. Faccio spesso l'esempio dei respingimenti in alto mare, no? In conseguenza di un accordo stipulato dal governo italiano ancora con Muammar Gheddafi, Italia e Libia, col voto favorevole dell'89% del Parlamento italiano, si mette d'accordo per fare questi respingimenti in alto mare di migranti. E, recentemente, a febbraio, i respingimenti in alto mare sono stati considerati illegali, sono stati condannati dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Corte Europea per i diritti dell'uomo che già aveva stigmatizzato la procedura, no? Ma che non aveva fatto niente per fermarla, non c'erano gli strumenti per farlo. E i respingimenti sono stati giudicati illegali, ma non perché siano pratica inumana, che va contro i diritti dell'uomo, che va contro la dignità della persona, ma di nuovo per lo status giuridico di un particolare tipo di esseri umani, per un'etichettatura, cioè perché alcune delle persone che tu respingi in alto mare potrebbero essere dei rifugiati. Oggi è la giornata tra l'altro internazionale del rifugiato, quindi ha senso parlarne. Potrebbero essere dei rifugiati, quindi persone che hanno diritto di chiedere asilo, e se tu li respingi prima che loro possano esercitare questo diritto, fai un atto illegale. Quindi una cosa che secondo me appunto è inumana di per sé, in realtà viene giudicata illegale per via del diritto di alcuni particolari tipi di individui. Diritto che peraltro questi particolari tipi di individui, i rifugiati, possono ottenere soltanto raccontando la loro storia, in particolari audizioni, nelle quali Antar fa appunto da mediatore culturale, e in cui queste persone praticamente si sottopongono al giudizio di rappresentanti del paese ospitante, che naturalmente sono occidentali bianchi, che decidono se il loro paese è un paese cattivo, cioè se magari c'è un dittatore che è nemico dell'Occidente, allora loro sono dei rifugiati, se c'è un dittatore, ad esempio Gheddafi, che invece è amico dell'Occidente, allora non sono rifugiati, sono migranti economici, e in quanto migranti economici invece li si può respingere. Cioè di fatto la cosa incredibile è che questo statuto di rifugiati, che per carità no, ovviamente permette a persone perseguitate di ottenere asilo, quindi diciamo è un dispositivo che è difficile criticare, però in qualche modo crea una discriminazione poi piuttosto forte nei confronti dei migranti economici, che invece magari fuggono dalla fame, fuggono da un'oppressione creata dal neocolonialismo alla fine, però quelli non sono rifugiati, non possono chiedere asilo, mentre invece in altri casi, e chi giudica tra chi può chiederlo e chi non può chiederlo? Appunto l'Europa, l'Occidente, ancora una volta si fa arbitro, no? Dei destini e del grado di democrazia di questi altri paesi. Se sono paesi in cui noi abbiamo esportato la democrazia, magari allora chi viene da là non è un rifugiato. Se invece ancora non abbiamo fatto questa operazione umanitaria, allora chi viene da là è un rifugiato. Ecco, quindi questo un po' è il senso della ricerca finale di Isabella dentro al dizionario di ma allora che cosa vuol dire cittadino? Che cosa vuol dire profugo? Io cosa sono? Sono una rifugiata? No, no, al massimo sono una rifugianda, sto cercando rifugio, però ancora non l'ho trovato. E il libro in qualche modo lancia nelle sue ultime pagine questa domanda. Tant'è vero che appunto Isabella alla fine riuscirà a trovare una conclusione della sua vicenda, che non racconto per non rovinare, insomma non è una gran sorpresa, però in qualche modo riesce a terminare questo suo percorso di senza fissa dimora, di profuga, di persona precaria che deve tentare tanti lavori per mantenersi in vita. Lo conclude nel maggio del 92, più o meno dopo un anno di permanenza in Italia, non certo grazie allo Stato. Sì, ha ormai 67 anni, 65, 66, compiva a settembre, quindi a maggio, insomma, 66 anni, non lo compie, non lo completa, non trova un rifugio, non trova insomma, una stabilità grazie alle cure dello Stato italiano, ma grazie alle cure di un'altra istituzione, che un po' la fa riflettere, perché dice, boh, insomma, mio fratello era morto per la giustizia e la libertà dello Stato italiano, della Repubblica italiana, guarda un po', questa giustizia e libertà invece in qualche modo me la garantisce qualcun altro, una volta che sono tornata in Italia. Apriamo. Se qualcuno ha qualche domanda. Sì. Curiosità, domande, qualunque cosa, insomma, cose che non mi tornano. Dite pure. Se no ti ne butta una io, sì. No, io dico una mia considerazione sul libro, in realtà. Quello che mi ha colpito di più del libro è lo sguardo femminile. Cioè, sembra scritto per me, cioè la sensibilità femminile che c'è in questo libro. E mi ha colpito molto perché, secondo me, è il primo libro che è riuscito davvero a entrare, cioè il primo libro del collettivo Wuming a colpirmi in questo senso, nel senso che, come ho già detto, forse l'operazione è stata agevolata dal fatto che comunque sono due uomini e una donna a scriverlo, però insomma vorrei che mi diceste un po' qualcosa in più su questo aspetto, perché l'ho trovato, cioè la caratteristica più toccante del libro per me. Sì, ce lo chiedono spesso, come due uomini sono riusciti a scrivere così bene attorno alla vicenda che di una donna, no? No, ma credo che un po' perché loro si sono conosciuti a lungo, hanno parlato molto e quando lui veniva a casa tutti i mercoledì era un appuntamento fisso. Non era solo Giovanni a fare le domande a Isabella, ma spesso era anche Isabella a farne tante di domande a lui. Quindi c'era, come dire, c'era un raccontarsi profondamente e una voglia anche di entrarsi dentro un po', di cercare di tirare fuori un po' il nocciolo di quello che si voleva veramente dire, che cosa, proprio perché non... Il loro incontro, avendo 50 anni di mezzo, era un incontro anche che aveva talmente tante cose che poteva far sì che fallisse un incontro di questa natura, però proprio quelle tante differenze erano anche la ragione per la ricerca di una qualità del rapporto. Quindi proprio perché non è il rapporto del coetaneo, le amicizie che si hanno così, che sono, questo era proprio una cosa cercata, c'erano 50 anni di mezzo, due biografie, due storie, due sensibilità, due mondi, due visioni delle cose, e proprio quelle tante distanze che c'erano, quelle tanti anni di mezzo che c'erano, che faceva sì che la ricerca di un qualcosa che li unisce emergeva molto bene, e questa cosa è stata la loro chiacchierata, quelle 30 ore, 40 ore che Giovanni ha nella registrazione. Poi d'altra parte c'era anche il fatto che comunque Isabella è rientrata qua a 66 anni, 91, io ero già qui da molto tempo e io stesso ho riscoperto una madre, perché comunque non era più quella madre che io conoscevo quando vivevo a Mogadiscio, ma era una madre nuova che è rientrata qua, e quindi in qualche modo abbiamo vissuto 18 anni insieme e riscoprendo anch'io tutta una serie di, poi essendo io anche più grande, quindi riuscendo ad apprezzare e anche a litigare meglio su alcuni punti, quindi perché comunque era una persona con cui si facevano dei bei litigi, non era, questo era, ti divertivi. Poi dall'altra parte credo che proprio per per credo l'amore e la stima che abbiamo avuto nei suoi confronti, e noi abbiamo fatto a mio avviso anche un'operazione in più, che è stata quella di cercare di portare il nostro orecchio alla componente femminile in noi, cioè perché credo che noi tutti noi abbiamo sia il maschile che il femminile, e questo Isabella ci ha aiutato molto, anche perché comunque era una persona che ti tirava, era maieutica, ti tirava fuori le cose, e credo questa stima e questo affetto nei suoi confronti ci ha proprio aiutato a scoprire, a ritirare, a metterlo fuori, portarlo alla luce, quello che in noi è del femminile, della donna. Come vuoi? Sì. Qualcuno? Io non ho ancora letto il libro, però ho già letto un paio di libri del collettivo. La mia domanda magari può risultare banale, però era più che altro una curiosità. Ormai credo che vi siate specializzati in questo tipo di scrittura collettiva di cui parlavate prima. Nella pratica però, come si arriva a scrivere un libro in gruppo? Cioè come si fa nella pratica? Tecnicamente proprio a tirare giù un libro insieme ad altre 3-4 persone o altre due, come è successo in questo caso. E aggiungo in più non con pari scrittori, diciamo, ma con magari persone che non sono mai più di tanto dedicate alla scrittura. Beh sì, questa credo che sia la novità rappresentata anche da questo libro, almeno nel nostro percorso. Avevamo fatto un altro libro con un altro autore, con Vitaliano Ravagli, appunto Asce di guerra, però in realtà in quel caso noi lo avevamo intervistato, lui aveva scritto già due libri pubblicati da un autore a pagamento in cui aveva raccontato la sua vicenda, e poi in qualche modo ci aveva appaltato il lavoro, cioè di fatto lui non aveva lavorato con noi. È un po' anche sulla scorta di quello che a me la prima idea che mi era venuta in mente di lavoro sul materiale registrato era stata quella, no? Lavoro io in autonomia e poi in qualche modo lo faccio rileggere a Isabella per avere l'imprimatur, ma pensavo non più di questo, proprio perché appunto nella nostra pratica chiaramente la frequentazione assidua, il fatto di essere amici da tanto tempo, che facciamo collaborare da tanto tempo, di aver fatto insieme cose anche molto diverse dallo scrivere libri, conta molto, o almeno siamo sempre stati convinti che conti molto. Però ci sono molti elementi in comune tra quello che facciamo nei romanzi collettivi, tra virgolette, classici, e in un'operazione come quella, in un progetto come quello che presentiamo oggi. Cioè, da prima c'è una fase di discussione di che storia si vuole raccontare, che in qualche modo noi quando siamo in quattro facciamo passandoci dei libri, suggestionandoci a vicenda su un certo periodo storico, per esempio, cominciando a fare ricerche in parallelo e poi ognuno racconta agli altri che cosa ha trovato, e può essere messo in corrispondenza con tutta la fase di chiacchiere tra me e Isabella, no? In cui in qualche modo andavamo a sondare qual era il materiale narrativo, che cosa si poteva raccontare, cosa no, quali erano gli episodi interessanti, che cosa c'era di universalmente interessante in quella storia particolare, perché poi tu comunque racconti una storia che è particolare per forza di cose, a meno che tu non racconti una favola che si svolge appunto in un regno X, c'era una volta, ma se no di solito tu racconti una storia particolare che però deve avere un significato universale. Quindi c'è questa fase in qualche modo di rodaggio, di jam session, di improvvisazione, di scaldare i motori, in cui si chiacchiera molto, ci si confronta. Poi pian piano quando emerge un nucleo narrativo, una prima idea di quello che si vuole raccontare, allora di solito il nostro lavoro diventa un lavoro sulla struttura, la scaletta per dirla in termini semplici, no? Immediati. Sull'intreccio. Per esempio con Isabella è stato molto importante arrivare a definire, a decidere insieme, a essere d'accordo sul fatto che il 91-92, l'Italia appunto, primi vagiti di Tangentopoli, Seconda Repubblica che in realtà insomma capiamo che non è mai nata, eccetera, doveva essere il presente narrativo del romanzo, cioè quello lì, quel periodo lì in cui Isabella vive quella condizione di profuga e cittadina al tempo stesso è il presente narrativo del romanzo, quindi tutta la storia, il passato di Isabella viene raccontato invece per flashback inframmezzati, quindi c'è un capitolo del 91-92 e uno di flashback, uno del 91-92 e uno di flashback, partendo più o meno dal 25 quando Isabella è nata fino a ricongiungersi con il 90 a quando Isabella è venuta via, diciamo a quando è scoppiata la guerra civile a Mogadiscio. Questa è una struttura che abbiamo anche già utilizzato, che è anche abbastanza tipica, no? Se vogliamo anche, come si chiama il film di Virzì, quello con Stefania Sandrelli, mi ricordo. Sì, la prima cosa bella è più o meno così, no? C'è un presente narrativo e poi ci sono dei flashback alternati. Solo che al cinema siamo anche più abituati, ci viene più facile. Molti sottolineano la particolarità di questo intreccio che invece appunto è abbastanza già sperimentato. Se vogliamo ci abbiamo mescolato poi dentro elementi di archivio, abbiamo deciso per esempio, ci siamo detti con Isabella, qua tutta questa storia, per esempio appunto l'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, il colonialismo italiano, rischia di essere percepita come una specie di fantasy, no? Cioè, come se fosse la terra di mezzo di Tolkien, perché nessuno, io stesso prima di cominciare a studiare queste cose avevo tantissimi buchi sulla storia coloniale italiana, allora ci siamo detti mettiamo dentro anche dei reperti storici, pochi per non appesantire, giustificati narrativamente, dei documenti che facciano capire al lettore che no, insomma stiamo raccontando una storia che ha una collocazione ben precisa, reale. Quindi lavoro sulla struttura. Dopo questo lavoro sulla struttura emerge pian piano una sorta di indice del libro, cioè cerchiamo di dire benissimo, questa struttura si traduce in capitolo 1 succede questo, capitolo 2 succede quest'altro, capitolo 3 eccetera, e quindi scalettiamo proprio capitolo per capitolo e poi prendiamo ogni singolo capitolo e discutiamo un po' meglio di che cosa succede lì, sì succede questo, ma esattamente qual è la scaletta, no? Se dovessimo girare con la macchina da presa quella scena, allora partiamo con lui che fa questo, e poi incontra Tizio, e poi gli dice queste cose, poi ci pensa su, e alla fine va a letto, per dire, no? Questa è la struttura di un capitolo. A quel punto lì ce li dividiamo, come compito a casa, quindi la stesura iniziale di ogni singolo capitolo è una stesura, se vogliamo, individuale, cioè sulla base della scaletta decisa insieme, ognuno comincia a scrivere. E con Isabella e con Antra abbiamo fatto così, uguale. Senza mai dividersi i capitoli in maniera specifica, cioè io scrivo i capitoli in cui c'è quel tal protagonista, tu scrivi i capitoli di quell'altro. Per esempio in questo libro ci sono tutti i capitoli al passato, che quindi i flashback, sono in prima persona singolare. Isabella dice io. Mentre i capitoli al presente sono in seconda persona singolare, c'è un narratore che dice ti immagino che fai questo, tu dici questo, tu fai quest'altro. Beh, quei capitoli in cui Isabella dice io non li ha scritti tutti Isabella, alcuni li ho scritti io, alcuni li ha scritti Isabella, alcuni li ha scritti Antar, come prima stesura. Poi molto spesso questa prima stesura in realtà fa emergere delle incongruenze nella struttura che uno si era pensato per il capitolo, nella scaletta, quindi ci spediamo email in cui ci diciamo ragazzi ho provato a iniziare a scrivere il capitolo così ma non funziona, a parole sembrava facile, ma in realtà il personaggio non lo abbiamo ancora portato al punto da fargli fare queste cose, ci vuole un passaggio in più, oppure il dialogo non funziona, insomma ci diamo dei feedback su come va la scrittura. Poi ci spediamo via email il capitolo, nel caso di Antar e Isabella è stata più una lettura, diciamo, questa fase era meno evidente, e di solito però tra di noi del collettivo ci spediamo il capitolo, ognuno se lo legge a casa, legge il lavoro degli altri e comincia ad appuntarsi quello che secondo lui non va, che andrebbe cambiato, no? Un dialogo, l'attacco, la chiusura, una descrizione, a volte prova anche proprio a riscriverla, altre volte formula semplicemente una critica. Poi ci troviamo, appunto con Ante e Isabella abbiamo fatto più o meno sempre questo passaggio, ci troviamo e ognuno legge ad alta voce quel che ha fatto, quindi legge il suo capitolo. E tutti gli altri alzano la mano e dicono, fanno le osservazioni che devono fare, propongono i cambiamenti, se hanno dei cambiamenti da proporre. E ci sono, diciamo, tre possibilità: o il capitolo è buono alla prima, cioè uno lo legge, nessuno alza la mano, a tutti sta bene, per il momento lo si mette in banca, diciamo. Oppure le modifiche proposte le si prova, le si monta dentro, no? Taglia e incolla, si rilegge, il capitolo funziona, lo si mette in banca, oppure il capitolo non funziona e non lo si può mettere in banca. E allora in quel caso quello che di noi che ha fatto più critiche ha il compito di riscrivere il capitolo e quindi ci rimette le mani sopra e poi lo riproporrà. E più o meno con Ante e Isabella abbiamo fatto così: io scrivevo un capitolo, poi lo leggevo, lo passavo ad Antar, Antar ci rimetteva le mani sopra, poi me lo ripassava, era una specie di ping pong continuo, che quando siamo in quattro diciamo è più un giro tondo che un ping pong, ma più o meno insomma sempre di sport ludico si tratta. E questo continuo processare la scrittura, i capitoli, così pian piano fa sì che si trovi una strada comune, uno stile comune per scrivere il libro. Ovviamente ci sono tanti momenti di intoppo, tanti momenti in cui diciamo si litiga, no? Cioè nel senso uno ha un'idea e uno ne ha un'altra, e quando si è in quattro ci sono pure quattro idee diverse delle volte, e in quel caso lì insomma chiaramente non facciamo mai a votazione. Io e Antar eravamo in due, si poteva votare poco. Quando siamo in collettivo siamo in quattro, sarebbe spesso 2-2, e poi insomma appunto, no, in gruppi così piccoli ci vuole un po' di democrazia diretta, cioè nel senso trovare l'unanimità attraverso la discussione. E quindi ecco, la sfida più importante è proprio questa: quando ti trovi di fronte a opzioni alternative, no, proposte, idee diverse, riuscire a non cercare l'unanimità attraverso la riduzione di tutte le idee a un nocciolo comune, che spesso è privo di tutti gli elementi particolari che ciascuno aveva portato e mantiene soltanto la parte forse più banale delle quattro idee, no? Se così fosse, allora la creatività collettiva sarebbe davvero una mediazione al ribasso, sarebbe una omologazione in cui ognuno, invece di portare, di aggiungere quello che ha di sé da portare, ci rinuncia. E invece cerchiamo di fare in modo che le quattro idee diverse ne generino una quinta che in qualche modo tiene conto delle varie caratteristiche di ciascuna, ma le supera e lancia una sfida ulteriore, no? Che possa entusiasmare tutti e quattro, che non è quella di nessuno, ma insomma magari tiene conto di tutte. E questo un po' è il metodo. Poi chiaramente quando in banca cominciano ad esserci 15-20 capitoli, che di solito per noi sono tipo un terzo del romanzo, non molto di più, ce li rileggiamo tutti e sempre ad alta voce, perché ad alta voce si sentono i problemi della scrittura molto di più che non con la lettura mentale, proprio è una cosa ad orecchio, come quando in sala quando per produrre un CD lo ascolti tante volte, no? E proprio senti come suona, e facciamo delle correzioni. Togliamo aggettivi, cambiamo l'ordine delle parole, cambiamo le frasi, proprio diciamo una ricerca stilistica insieme in cui anche lì si elabora un modo collettivo, una voce collettiva con cui si racconta la storia. Letture, letture, letture, letture successive, alla fine arriviamo alla stesura definitiva che mandiamo alla casa editrice. A quel punto si affianca anche una persona interna alla casa editrice che dà una sorta di occhio esterno, con cui rileggiamo per un'ultima volta, sempre facendo appunti sul testo, e ultime modifiche sulle bozze, e poi si va in stampa, più o meno. Vabbè, diciamo, sì, sì, è vero, quando lei faceva... no, è un episodio che succede nell'atelier di Renato Guttuso, Isabella faceva la modella per lui, no, Aschenbeko per questo, questo pittore bulgaro che ha fatto, fra le cose, non è conosciutissimo adesso, però ha fatto la statua di Leonardo da Vinci a Fiumicino, è lui. Era un pittore che negli anni fine 40, prime 50, fino al 60, credo, era abbastanza quotato a Roma. E Isabella faceva la modella per lui. E Montanelli in quell'epoca lavorava per Domenica del Corriere, giornalista del Domenica del Corriere. E questa via Margutta di Roma è una via dove c'erano tanti pittori, e adesso non credo ci sia più, però ci vive Salvatore, via Margutta, era colpito. Ed era una via piena di pittori, atelier di pittori, cioè lei per tanti faceva, credo, la modella. E un giorno entra Indro Montanelli nello studio di Aschenbeko e allora dice, ah, ma chiede un po' i lavori che erano lì, dice, cos'è questo busto? E allora dice, cos'è un primate? Dice, parlando di Isabella, no? Cos'è? Signorina, lei vuole una banana o preferisce dei noccioline? Giocando un po' sulla pelle, sulla carnagione di Isabella. Però che comunque non è che lei si offende, cioè non, poi sapeva che comunque lui era uno che è stato in colonia, era un militare, quando c'è stata la guerra giù, e quindi aveva una ragazzina, Eritrea, era quello stereotipo razzista che di solito ne ha viste tante in Italia in quel periodo lì. E allora c'è questo episodio dove lui dice, allora signorina, è una specie di scimmia, vuole delle noccioline, dice, guarda, io non le ho mai mangiate le noccioline, però se me le vuole comprare mi assaggio pure, quindi è vero. È abbastanza indicativa, diciamo, tutto l'ambiente che Isabella ha frequentato negli anni 40, questo ambiente artistico, intellettuale romano, soprattutto maschile, scrittori, gente del cinema, registi, pittori, scultori, erano in qualche modo l'intelligenza alla quale era stato affidato il compito di traghettare l'Italia dal regime fascista all'Italia democratica, in qualche modo, no? Era quella gruppo di intellettuali a cavallo della seconda guerra mondiale, insomma. Ed è significativo, secondo me, in questo caso, lo sguardo di una donna con la pelle scura, italiana, come Isabella, perché mette a nudo molto evidentemente come, in fondo, dal punto di vista del razzismo colonialista, queste persone non fossero poi tanto diverse, no? Si fossero nutrite di una cultura, di una mentalità coloniale che ha forgiato in maniera molto forte, molto determinante l'identità del maschio italiano, proprio del maschio, dico, perché come una ricercatrice qualche anno fa ha scritto un libro molto interessante, secondo me, lei non mi ricordo il nome, ma è segnata nei... No, è un'altra, Chiara, non mi ricordo come, che ha scritto per Ombre Corte. Comunque nei titoli di coda c'è questo libro che si chiama Colonia per maschi, dove fa notare come, in fondo, il colonialismo italiano sia stata soprattutto una faccenda maschile, no? Perché nella maggior parte dei casi non abbiamo avuto colonie di popolamento in cui andavano famiglie, a parte in Libia a un certo punto negli anni 30 i 20.000 che vennero mandati là dal fascismo, ma per il resto la maggior parte dei casi erano soldati, amministratori, funzionari, burocrati che andavano là e poi molto spesso, diciamo, non essendosi portati donne dalla madre patria, vivevano in relazioni coniugali di madamato, oppure anche relazioni violente, stupri, oppure come diceva Montanelli, si prendevano queste donne bambine, 12-13 anni, e io ho visto un'intervista in cui Montanelli dice, adesso a dirla così mi direte che era un pedofilo, no? Perché c'aveva una donna di 12-13 anni, ma non è vero, perché là in quei paesi, no? Sono le donne, diventano mature prima, sono abituate così, no? Quindi, no? Quando ti interessa c'è la missione civilizzatrice dell'uomo bianco, no? Che va a portare la sua cultura in Africa. Quando invece quella cultura ti fa comodo per farti una bambina di 12-13 anni, allora benissimo, no? È la loro cultura in fondo, no? Quindi, quindi questo libro, Colonia per maschi, sottolinea molto come il colonialismo abbia forgiato l'identità maschile. Chiara Stefani, esatto. come abbia forgiato l'identità maschile italiana, e questi personaggi che Isabella frequenta nell'immediato dopoguerra lo dimostrano. Erano comunque ancora molto impregnati di una cultura secondo la quale una donna nera era comunque una donna da possedere rapidamente, così come il colonialismo aveva posseduto le terre africane, allo stesso modo si possedeva il corpo della donna africana, che sostanzialmente costituiva una promessa di sesso facile, selvaggio, no? Caldo, e c'era tutto questo stereotipo che dal colonialismo è stato traghettato direttamente dentro all'Italia repubblicana, e col quale probabilmente dobbiamo fare i conti ancora oggi, no? Quindi insomma il libro cerca di aiutarci anche a capire quali stratificazioni culturali, di che cosa è fatto il razzismo che alberga nei nostri cervelli, e che non basta per mandarlo via, no, definirsi antirazzisti, non è che dici io sono antirazzista, allora evapora quella roba lì che si è sedimentata così fortemente, no, è qualcosa della quale ognuno di noi credo dovrebbe essere consapevole per poterla combattere quotidianamente, altrimenti appunto si fanno buoni propositi, ma i buoni propositi diventano un aggravante e basta. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, tu sei d'accordo? Vuoi leggerci un pezzettino? Sceglilo tu, se no te lo do io. Come vuoi, se me lo vuoi dare tu. Beh, questo è, noi a un certo punto abbiamo ricostruito un dialogo tra Isabella e sua madre, in cui fa da interprete un cugino di Isabella, Abdelkassim Salad Hassan, che poi è diventato tra l'altro presidente del governo di transizione somalo per qualche anno. Sono lì sulla spiaggia di Brava, in Somalia, sono vicine madre e figlia. Sostanzialmente con questo fatto appunto che non parlano la stessa lingua, che ci sono i malintesi che diceva Antar, non si sono mai dette determinate cose, sono gli anni 60, il 69, siamo alla vigilia del colpo di Stato di Siad Barre, e le due donne invece finalmente si riescono a parlare grazie a questa mediazione, no? E Isabella insomma chiede ad Ashkira come si è sentita quando le sono stati portati via i figli, se in qualche modo abbia avuto voce in capitolo, no? Ci sembrava importante far parlare questa donna che probabilmente appunto non ha mai avuto voce in capitolo, come del resto probabilmente non l'ha avuta nemmeno la donna sarda Elvira Floris, alla quale Giuseppe Marincola ha portato questi due figli dall'Africa e gli ha detto adesso li allevi, no? Come se fossero tuoi. Quindi dice, parlano, Isabella chiede rispetto alla decisione di portarli in Italia. Quindi eri d'accordo? No, ma era giusto, anche se io stavo male. Poi di nuovo riprende a parlare in somalo e mi tocca aspettare la traduzione. Eravate i miei primi figli, non ne avevo altri, attacca Abdelkassim parlando in prima persona, come se davvero prestasse la voce a mia madre. Vi ho portati dentro di me, vi ho allattati, vi ho tenuto tante ore contro la schiena, avvolti nella fascia, mentre andavo in giro o facevo i lavori. Vi ho raccontato sceco, favole, anche se Marincola mi diceva di no, di parlare italiano. Abdelkassim ci ferma, mia madre aggiunge qualcosa, io aspetto. Tuo fratello Khalif è andato a Mogadiscio che aveva 12 anni, stava da uno zio, studiava molto, e tua madre non l'ha più rivisto, fin quando anche lei si è trasferita in città, e lui ormai era un uomo di 20. Anche Ginny a 15 anni è andato a Mosca ed è tornato solo l'altro ieri. Le donne somale dell'età di tua madre, quelle nate fuori città, sono abituate a lasciare i figli per il loro bene. Ma un ragazzo di 12 anni ormai ha la pelle forte, mentre un bimbo come voi è ancora carne della madre. Se glielo porti via è come strappare la carne, come togliere un braccio. E ancora di più se quei figli spariscono, come se sono morti, e di loro non sai più niente, se studiano, cosa studiano, se si fanno valere. Quindi Giuseppe non ti ha mai scritto niente di noi, niente di niente? Mai niente. Solo soldi, una volta all'anno, per una decina d'anni. Dice qualcosa in somalo, con aria di disprezzo. Abde Kassim cerca le parole. L'affitto per la mia pancia. Ci resto male, anche se già lo sapevo. Ho sentito molti figli di donne somale arrampicarsi sugli specchi per giustificare i loro padri italiani. Almeno quelli che hanno avuto l'opportunità di conoscerli. Lui non era un fascista, è venuto in Somalia per guadagnarsi da vivere. Lui non è stato un colonialista, era soltanto un soldato e faceva il suo mestiere. Non ci ha fatto mancare nulla, era una brava persona, erano davvero innamorati. Era venuto qua per costruire le strade, i ponti, non posso biasimarlo. Tutto vero, tutto comprensibile. Anch'io per lungo tempo mi sono raccontata che mio padre è stato un gentiluomo che ha fatto un gesto generoso, molto insolito per quei tempi, darci il suo cognome, il nome dei nonni. Ma ora che ascolto mia madre, ora che lei può parlare, mi rendo conto che devo accettarlo. Sono figlia di una violenza e lo sarei anche se i miei genitori si fossero tanto amati come in un bel fotoromanzo. L'amore, ai tempi delle colonie, è impastato di ferocia. Un pugnale affilato minaccia e uccide, anche se lo spalmi di miele. Sono la figlia di un razzista, uno che in tutti i modi ha cercato l'oblio per la sua avventura africana, uno che con le sue bugie ha rovinato la vita di 6 persone, compresa Flora Virdis. Chissà cosa mi avrebbe detto la signora Marincola se un interprete avesse tradotto in parole le sue frustate. Chissà cosa avrebbe risposto se avessi potuto chiederle come si era sentita quando le avevano portato in casa i figli di un'altra, per di più neri. Se le avessi chiesto, eri d'accordo? Forse anche lei si sarebbe fatta una bella risata. Ma altro che interprete ci vorrebbe per farle certe domande. Avrei giusto bisogno di un'altra vita. No, solo due cose, perché siccome sono tante cose anche storiche che ha letto adesso Giovanni. Di solito gli uomini, quando facevano i figli, lasciavano le colonie. C'erano, quando questo governatore, che si chiama Cesare Maria, si porta, lui è piemontese, di Casal Monferrato, giusto, no? Di Casal Monferrato, lui si porta l'ordine delle suore della Consolata. Perché prima c'erano i Trinitari, l'ordine dei Trinitari, lui invece si porta alle suore della Consolata. E le prime cose che fanno, a parte fare la cattedrale di Mogadiscio, che è una delle più grandi cattedrali dell'Africa orientale, è quella di fare molti orfanotrofi, perché nascono molti, in quel periodo lì nascono molti mulatti, meticci. E la maggior parte di questi ragazzini crescono poi in questi orfanotrofi. E la cosa che farà Giuseppe Marincola è una rarità, è l'unico che prende i figli e li porta qua, solo che lascia, stacca questi 2 bambini piccolissimi dalla madre. E quando lui legge questa cosa, incontra un bambino di 12 anni che si trasferisce in città, ma voi eravate troppo piccoli, eravate carne della mia carne, perché 1 anno e mezzo, 2 anni, era perché prevalentemente la popolazione somala e l'economia della popolazione è agropastorale, quindi continua transumanza. E quando in qualche modo un familiare riesce a mettere un po' di capi bestiame, quindi ha un leggero agio, non vuole che il figlio, di solito il maschio, il primogenito, faccia la vita del padre, nel senso che pascoli e gli animali di solito sono cammelli, bovini e ovini. E tendenzialmente cerca di mandarlo in qualche grande città dove di solito ci sono le scuole, e lo manda presso uno zio, un parente lontano, cose varie. Quindi molta biografia delle persone somale degli anni 30-40 è una biografia fatta così. Mio padre era un ragazzo che fino all'età di 12 anni pascolava gli animali, e poi il padre, che non aveva voglia che il figlio facesse questa cosa qua come la faceva il padre, lo mandò a Mogadiscio a studiare. E questa è una cosa che la biografia di tantissimi somali che hanno studiato poi a cavallo tra l'amministrazione britannica, che dal 41 al 50, e tra l'amministrazione fiduciaria tra il 50 e il 60, hanno tutte queste biografie. 12-13 anni vengono trasportati a Mogadiscio e vengono a studiare. Quindi è una cosa di cui lui racconta, che dietro c'è questo scenario storico che è vero. Però la cosa di Giuseppe, di Giorgio, di Isabella, è che erano molto piccoli, e quindi noi quando abbiamo affrontato questo, che credo che sia un po' anche la parte più nodosa e spinosa della storia, perché comunque questo gesto apparentemente di galantuomo ha rovinato in parte la vita della signora Somala, Shkira Hashanah, ha rovinato la vita di questa donna italiana, perché noi anche noi ci siamo chiesti come poteva sentirsi questa donna, gli porta una bambina nera, chiara, perché fosse stata bianca, almeno si mimetizzava, poteva dire questa è mia figlia, ma quella era evidente che non poteva mimetizzarsi, quindi gli portava negli anni 30 a una donna di Lanusè, che non so che livello di istruzione avesse, gli porta una bambina nera e dice devi fare da madre, e questa qui non era una cosa facile. Quindi la difficoltà proprio è questa, nel senso che da una parte ha portato via bambini molto piccoli dalla madre naturale, dall'altra ai bambini, a Isabella non gli ha detto sei nera perché tua madre insomma tua madre non è questa, non gli ha spiegato nulla, quindi sei nera perché hai preso tanto sole, questo la Shkira Hashanah è il nome tradotto in somalo di Elvira Floris, quindi da una parte questo, e dall'altra parte a questa donna gli ha imposto questa cosa, quindi è un po' diciamo proprio il nodo, e noi abbiamo cercato in più che cercare il buono e il cattivo, cercare di capire la complessità di una vicenda di questo tipo. Siamo stati a Milano il 18 e lì c'era la sorella di Isabella, Rita, la figlia della signora Sarda, e ancora si coglie come ancora è molto difficile, nonostante siano passati tanti anni, nonostante Isabella sia morta da tanto tempo, come abbiano interiorizzato comunque un tasso di sofferenza a tutti che rende questa famiglia in qualche modo molto pre-Benetton, perché cos'è, è estremamente faticosa. Basta, se non avete altre domande, ma non penso. Ok, chiudiamo, siamo qua, infatti. Le domande se le fate qua, dai, grazie a tutti. Aspettiamo qui.